Intanto sull'enorme tema della proliferazione e della non proliferazione. L'accordo di ieri apre la possibilità di fare conclusioni ambiziose. Se noi riusciremo a dire per bocca di tutti i G8, tutti i membri G8, che vogliamo guardare a un mondo senza armi nucleari e che quindi non è importante solo la non proliferazione, ma anche la riduzione delle testate, cioè quello che bilateralmente hanno deciso ieri America e Russia, avremo fatto un grande passo avanti. L'altro tema su cui mi aspetto dei risultati sono alcune misure, come dire, per la crisi globale economico-finanziaria.